La zanzara. Con Luca Telese. 800 24 0024, chiamate questo numero, non pagate nulla e cominciamo a ronzare sui fatti del giorno. Gli sms 349 238 6666 li leggo solo a pagamento. Allora, stiamo entrando nel vivo della giornata, siete pronti? Sono gran tanti temi: il lavoro, il non lavoro, i trucchi, i transessuali, i bisessuali, i corridori taroccati, i patti strani del PD e lei che riappare a Porto Rotondo, fantastica, bellissima, Noemi. Ma prima di parlare di tutto questo, sentiamo i titoli di Studio Aperto. La tragedia sull'Hudson, prepara il barbecue, ci cuciniamo il gatto. L'allarme era stato lanciato, ma l'uomo radar scherzava al telefono mentre il Piper entrava in collisione con l'elicottero, provocando la morte di 9 passeggeri. La rabbia e il dolore sono grandi, siamo sconcertati, dicono i parenti delle vittime italiane. Afghanistan, 26 morti nel giorno del voto, ma il terrore non ferma le elezioni. Prorogato l'orario dei seggi, gente in coda alle urne, tra loro anche molte donne. È stato un successo, dichiara il presidente Karzai. Caldo, un'altra giornata rovente da nord a sud, afa e tassi di umidità elevatissimi, un mix micidiale che ha fatto già 2 vittime in provincia di Rovigo, attesi per domani sera i primi temporali. Paura a Ciampino, un aereo perde il tappo del serbatoio che dal cielo colpisce il terrazzo di un condominio. Nessun ferito e pochi danni, ma ora è caccia al velivolo distratto. Intanto torna la polemica, troppi voli sul centro abitato della capitale. Taxisti in divisa, Milano, città della moda, lancia l'idea, anche in vista dell'Expo. Abiti da lavoro, magari griffati, per gli uomini che rappresentano il primo punto di contatto con gli stranieri in arrivo. Era la star del film Senti chi parla con John Travolta. Kirsten Alley oggi pesa 113 kg e combatte con gravi disordini alimentari. Gli esperti, dalle pagine di un tabloid, le danno solo 4 anni di vita. Tutta colpa di continui aumenti e cali di peso, ma lei ribatte: ce la farò. Il Bari Calcio cede al sogno americano, firmato l'acquisto preliminare della società pugliese per 25 milioni di euro. Il nuovo proprietario, Timothy Barton, è un imprenditore texano, proprio come il JR del serial Dallas. È business, dice ai nostri microfoni, ma diventerà la mia passione. Bene, erano i titoli di Studio Aperto. Ogni volta iniziamo questa corrida dai titoli del TG, fra poco avremo quelli del TG2, ma iniziamo a sentirci il menù del giorno. Per esempio, si vota in Afghanistan fra minacce terroristiche, scorre il sangue. Fonti governative a Kabul dicono che nelle violenze che hanno inseguito la giornata elettorale sono rimaste uccise 26 persone, 8 militari, 9 civili, 9 agenti di polizia, un massacro. Il ministro della difesa, La Russa, questa mattina a Radio Anch'io, ha confermato che i 500 militari italiani rimarranno fino a ottobre in caso di ballottaggio. Le elezioni per il ministro sono un bivio importante fra il caos e la sicurezza internazionale. Il nostro impegno è di cercare di garantire al massimo la partecipazione popolare, cosa che al momento sta avvenendo e cosa che costituisce per i talebani, per i signori della guerra, per i signori della droga, uno smacco enorme. Non si spiegherebbe altrimenti l'avere da parte loro alzato il tiro contro i civili, averli minacciati di tagliare loro le mani. Credo che sia per tutti comprensibile che questo è un passo importante. Allora, queste elezioni sono un bivio in questo senso, costituiscono una prova importante della fattibilità del progetto della missione internazionale, che, ripeto, non è quella di annullare i pericoli del terrorismo. Vogliamo mettere il governo afghano, le forze armate afghane, la polizia afghana nelle condizioni di poter da soli contrastare tutti i fenomeni che dovessero crearsi, e questo delle elezioni è un passaggio cruciale. E questo è il mondo, ma c'è anche la politica italiana, c'è una disposizione di quelle che interessano la zanzara perché attraversano il conflitto fra mondi, fra culture, ed è la nota legge anti-kebab. Ve la ricordate? Ne abbiamo parlato tanto qui. E vi ricordate Gianni Prosperini, assessore regionale del PDL, ex leghista? Beh, ecco un mix delle sue possenti interviste in materia. Ma non vogliamo scherzare, ma certo che no al couscous e alla polenta. Se gli immigrati vogliono impestarci con i loro tipi di mangiare, non siamo disponibili, né a quelli americani né a quelli maghrebini. Ho capito. Ma mi dica, dottore, perché si è appassionata a questa cosa del kebab, che ce la vogliamo dire, non frega niente a nessuno. La presente spussen, puzzano. Vorrei sapere, perché se lei è una trattorietta, i suoi avventori non possono andare fuori, sedersi sulle panchine e mangiare, mentre se lei ha un posto di kebab dove va tutta quella gente lì e sta fuori fino alle 2 o 3 della mattina, può farlo. Io sono del parere che i vigili devono andare lì e dopo una certa ora stangare tutti se fanno casino, in modo da insegnargli l'educazione. E questo è il Prosperini pensiero, siamo l'Italia delle norme anti-kebab anche, e tiene banco la questione dell'inno nazionale. Noi, voglio dire, siamo stati nel nostro piccolo precursori. Ieri Deborah Serracchiani, eurodeputata passionaria del PD, ha dato una prova di sé, giudicate voi come nell'intonazione delle strofe sacrali. Vabbè, mi dà la base almeno. Sì, paropom, paropom, paropom, pom, pom, pom, pom. Non mi ricordo l'inizio. Madonna, lo vede che era un test importante. Era un test che dovevo superare. Beh, allora intanto inizio con quello che mi ricordo. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra dell'elmo di Scipio se cinca. Questa è una testa. Lezione rock praticamente. E via. E vabbè, insomma, la sto facendo breve, dobbiamo chiudere la breve. Lei mi ha messo fretta. No, non le metto fretta. Allora, ciao, stringiamoci a corte. Poi? No, vada, è il momento più importante. Stringiamoci a corte. A corte, sì, questo è vero. Siamo pronti alla morte? Alla morte? Siamo pronti alla morte? L'Italia? Italia? Chiamò! Chiamò, mamma mia. Giusto, no, ma lei è pronta per la Lega, Serracchiani. Adesso sarò durissimo questa sera. Chiunque voglia parlare alla Zanzara deve imparare questo stracavolo di inno. Siamo pronti alla morte? L'Italia chiamò! Sì! Anche il sì ci vuole. E a proposito della Lega, di inno, continua il braccio di ferro fra il partito di Bossi e il Quirinale sui famosi 150 anni dell'Unità d'Italia. 150 anni sono, non 10 giorni, non una settimana. E su questo e su altre proposte stie della Lega cala il giudizio del ministro per l'attuazione del programma del governo, Gianfranco Rotondi. La Lega d'agosto è come la Versiliana e Cortina incontra. Parla, poi viene settembre, per fortuna. È ancora politica, si dice, dicitur su alcuni quotidiani, che si sta per ricandidare Antonio Bassolino, secondo incarico come presidente della regione Campania, secondo la regola del ritorno al futuro, che ormai è un grande male italiano. Adesso Antonio fa capire che potrebbe candidarsi a Napoli. Ma come? Non aveva detto largo ai giovani? Sentite, sentite. Io ho fatto per due volte il sindaco e due volte il presidente della regione. La Iervolino è al secondo mandato e non può ricandidarsi, ma di legge. È evidente dunque che bisogna aprire a forze nuove. Io penso che deve andare avanti una nuova generazione, sia nelle istituzioni sia dentro il PD. Aprire a forze nuove è quel lessico che ci ricorda un po' i sapori della Prima Repubblica. 800-24-0024 per chiamare, 349-238-6666 per intervenire. E insomma, invece pare che Bassolino sia lì, di nuovo in campo. E siccome anche sull'altro fronte, quello del PDL, pare che si stia addirittura pensando di spolverare la candidatura di Alessandra Mussolini, ci troveremmo nella curiosa situazione per cui i due contendenti al comune di Napoli sarebbero gli stessi del 1993. Proprio ritorno al futuro, Michael J. Fox. Nella parte di Antonio Bassolino. Christopher Lloyd. Nella parte di Alessandra Mussolini. Mary Steenburgen. Nella parte di Rosa Russo Iervolino. Steven Spielberg e Robert Zemeckis vi invitano ad assistere alla spettacolare rocambolesca conclusione di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, chissà, vi ricordate i mitici duelli a Bassolì e cose di questo tipo. Grillo e Sgarbi sono intanto ai ferri corti, il ministro interno ha dato al sindaco di Salemi addirittura una tutela, una scorta fra le telefonate anonime ricevute in questi mesi, spiega Sgarbi, ma qua bisogna chiamarlo, lo dico alla nostra redazione. Ne risultano alcune ispirate dal blog di Beppe Grillo, in cui è apparsa la registrazione falsata di un popolatissimo comizio tenutosi lo scorso giorno a Rosolini durante la campagna per le europee. un provocatore ubriaco. In quell'occasione, dice Sgarbi, fu allontanato dalla polizia. Il comico, spiega Sgarbi, ne ha attribuito la responsabilità a me, e il suo blog si è presto riempito di centinaia di messaggi minacciosi ispirati dalla falsa notizia, così come era accaduto dopo l'analoga provocazione ad Agrigento. Insomma, Sgarbi ha dato mandato ai suoi legali di denunciare Beppe Grillo per istigazione a delinquere, ed ecco l'audio incriminato alla Zanza. Da questo punto di vista Lombardo esprime... Guardalo te che non hai un'idea in zucca, vai a studiare, impara invece di ridere, perché fai ridere tu, patetico capellino. Ridicolo. Vuoi ridere? Vuoi giocare con me? Ti mangio vivo! Ti mangio! Caro te, cosa stai facendo, il balletto? La ragazza del villaggio? Devi farlo spiritoso, ridi di te stesso e di chi ti ha mandato a drogarti come fai. Detto questo, nella visione che l'autonomia rappresenta... Ecco, qui era il batti e risposta a colpi di fra Sgarbi e un anonimo che non conosciamo e ci spiace non poterlo citare, ma insomma Grillo se l'è preso con la legge Fini-Giovanardi sull'equiparazione della cannabis alle droghe pesanti, ed eccolo lì, Grillo sulla cannabis. Bisogna mettere mano sulla legge Fini-Giovanardi, una legge indegna, indecorosa, come chi l'ha concepita, è proprio una cosa indegna. Equiparare la marijuana, la cannabis, cioè la cannabis, una piantina, ha una droga pesante, bisogna essere bacati di testa. Bacati di testa, non ci va leggero il nostro Beppe, e sentitelo ancora, sulla legge... Mentre fanno da 6 anni a 10 anni di carcere per uno con una piantina, a Milano 150.000 abitué consumano cocaina tutti i giorni. Bene, questa è una legge ingiusta, parlo della Fini-Giovanardi, legge ingiusta, anti-europea, ipocrita, mortale, antisindacale, anti-intelligenza. Anti-intelligenza, in effetti guardate, questa cosa un po' dovrebbe far riflettere. I nasi rifatti aumentano, e infatti ne sentiremo parlare fra poco da un esperto, ma non sono nasi rifatti per botte, pugni, il vecchio colpo del boxer, no, sono nasi rifatti per l'usufrutto di coca. Allora, il Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio stigmatizza l'inno la cannabis fatto da Beppe e annuncia una segnalazione alla procura affinché valuti se ci sono gli estremi previsti dalla legge, e sono esternazioni fortemente inesatte, fuorvianti e prive di fondamento. Rieccoci in studio, abbiamo al nostro microfono l'autore di Rapaci, ma anche della Casta, ma anche di tante inchieste sulle pagine del Corriere della Sera. Vi presento Sergio Rizzo, buonasera. Buonasera. Allora, come va Rizzo? Bene. Oggi... vorrei parlare di questo strano paradosso di lavoro e non lavoro, un'inchiesta di una richiesta di ricerca di Confartigianato sul fabbisogno di mano d'opera, di cui tu oggi hai scritto, ha prodotto dei risultati stupefacenti. Ma stupefacenti, ma veramente sì, se dal punto di vista così numerico potrebbero anche essere stupefacenti, soprattutto considerando che siamo in un momento di crisi. Cioè c'è gente disoccupata, ma ci sono anche lavori che non trovano la manodopera di cui hanno bisogno. Ma sai, lo dice bene il presidente della Confartigianato Guerrini, che dice che c'è una cultura in Italia che considera di serie B certi lavori, soprattutto i lavori diciamoli, i parrucchieri addirittura. Parrucchieri, falegnami, c'è di tutto, elettricisti, eccetera. Per onor di verità devo anche dire di aver ricevuto da questa mattina numerose lettere, numerose mail, insomma, adesso per fortuna c'è la posta elettronica, quindi possiamo avere le reazioni dei lettori in tempo quasi reale. E cosa dicono? Beh, insomma, raccontano cose, diciamo, un po' diverse da quelle che dice la ricerca, nel senso che è vero che non le piccole imprese non riescono a trovare mano d'opera, ma è anche vero che qualcuno che si fossero disponibile poi si è visto sbattere la porta in faccia, magari perché non aveva l'età, nel senso che aveva magari 40 anni e gli hanno detto sei troppo vecchio, oppure c'era qualcuno che era disponibile anche a fare elettricista, però poi l'hanno visto all'opera e hanno considerato che non fosse sufficientemente esperto. Quindi diciamo, in realtà è una situazione molto più complessa di quanto non dicano i numeri freddi. Qual è il quadro che faresti? La crisi rallenta, ci sono insorgenze, lotte, scioperi, che tipo di autunno aspetta il mercato del lavoro italiano? Secondo me è un autunno molto complicato, perché dunque l'Italia è un paese a vocazione esportatrice, quindi in teoria tutto quello che manifattura per noi va bene. È chiaro che quando la manifattura è in crisi, come attualmente, noi soffriamo tanto più perché siamo agganciati alla locomotiva tedesca, e quando la locomotiva tedesca non produce, noi di conseguenza ne subiamo le conseguenze, insomma, subiamo le quindi siamo agganciati al, esatto, no? Però c'è anche questa ricerca, in realtà dice delle cose molto interessanti, ripeto, al di là dei numeri. Dice per esempio che noi non abbiamo, siamo un paese che sta perdendo piano piano quella cultura lì, la cultura del lavoro. Il caso della INSE, forse lo ricorderanno i nostri ascoltatori. E cavolo, ne abbiamo parlato per giorni. Esatto, il caso della INSE, se vogliamo, si iscrive nello stesso schema. Cioè un paese che piano piano, lentamente, negli ultimi anni, ma con sempre maggiore forza, sta perdendo il punto di riferimento fondamentale, che è quello che l'ha guidato negli anni del dopoguerra, che è quello del lavoro, no? A vantaggio della speculazione, nel caso della INSE, e o magari di un futuro più tranquillo, cioè chi pensa che rimanere disoccupato possa essere comunque un vantaggio rispetto ad affrontare una vita lavorativa complicata, perché poi c'è l'ammortizzatore sociale che si chiama famiglia, perché poi ci sono comunque sia, l'Italia è un paese nel quale diciamo si sopravvive bene o male, no? Ecco, questa indolenza, che se vogliamo un'indolenza generazionale, sta creando moltissimi scompensi al nostro mercato del lavoro. Non a caso si punta il dito contro la formazione professionale, perché anche la formazione, che è l'unica cosa che potrebbe in qualche modo mettere i giovani sulla strada, diciamo, del mercato del lavoro, poi vediamo che non funziona. Non funziona? No, assolutamente no. Ma alla fine che giudizio dai? Cioè altri paesi hanno dato una terapia più drastica, hanno iniziato subito con dei grossi finanziamenti o con dei ammortizzatori sociali straordinari. Tremonti ha un po' tenuto una strategia più carpe diem, no? Vediamo quanto che succede e casomai tamponiamo, sia con le banche sia con le grandi industrie in crisi. È appagato, si può dire, si può già esprimere un giudizio o no? Dunque, l'Italia è un paese dove non c'è stata la crisi delle banche, quindi noi abbiamo un grosso vantaggio rispetto agli altri paesi, però abbiamo anche visto che la produzione industriale e comunque l'economia sta andando forse peggio del previsto, e mentre gli altri paesi cominciano a riprendersi, noi invece siamo ancora un po' in fondo, no? Allora, ecco, quindi secondo me la strategia del governo non ha fatto altro che, diciamo, mantenere un po' la situazione diciamo di sopravvivenza, no, del paese. Non ha però dato quella spinta che forse ci si attendeva, soprattutto non ha dato una spinta a una riforma importante che forse in questo momento era utile, quella degli ammortizzatori sociali. E soprattutto, era stato promesso una riforma della formazione professionale, ma io francamente non ho sentito più parlare. Si era detto che le regioni spendevano troppi soldi inutilmente per la formazione, che questi soldi dovevano essere impiegati in modo più produttivo, però di questo piano poi non se ne sono perse le tracce, un po' perché le regioni hanno pestato i piedi, un po' perché i fondi scarseggiano e si risparmia di qua e di là. Ma i fondi scarseggiano, diceva Santo Versace, oggi sono solo 24 ore che il sud non è che manchi dei soldi, che vengono utilizzati male. Insomma, ci sarà una ragione per cui in Calabria l'85% dei lavoratori dipendenti sono dipendenti della pubblica amministrazione, diciamo, a parte il nero, ci sarà un motivo. Il motivo è anche quello che racconta l'indagine della Confartigianato, che ci sono imprese che vorrebbero lavoratori che non trovano perché questi lavoratori non sono culturalmente disponibili, spesso e volentieri, non sempre, spesso e volentieri, non sono culturalmente disponibili a... Allora preferiscono... Come mai un mestiere come il falegname, che nella nostra cultura, senza tornare a Betlemme... Ricordiamoci Pinocchio, no? Esatto, Geppetto. Come mai cade in disgrazia un lavoro come questo? Cioè, in realtà, perché più idraulici che falegnami? Perché l'idraulico guadagna sicuramente di più, e perché fare il falegname è difficile. Una volta c'erano gli apprendisti che lavoravano nelle botteghe e diventavano bravissimi. Adesso anche questo si è perduto, un po' con il discorso della industrializzazione dell'artigianato, no? Molte falegnamerie sono diventate ormai industriali, ma un po' anche col fatto che io sono abbastanza convinto che Guerini abbia ragione, cioè che sta venendo meno la cultura del lavoro. Quindi è molto più facile, ripeto, farsi mantenere in famiglia fino a 40 anni che non... Sergio Rizzo, ma è un quadro desolante, cioè da spararsi. Allora voglio dire, benvengano gli extracomunitari. No, esatto, ma la cosa paradossale è che poi ci... Ecco, ci... come incrociamo il dato di Banca Italia che dice non vengono a fare i lavori... che vorrebbero fare gli italiani, è vero quindi? Ma è giustissimo, perché se c'è questa, come dire, progressiva indolenza, no, verso i lavori, chiamiamoli più umili, ma è del tutto evidente che quella fetta di mercato qualcuno la deve occupare, no? E allora se nessuno vuole raccogliere i pomodori, ecco che arrivano i nigeriani a Caserta, oppure i rumeni nel resto dell'Italia. Se nessuno vuole fare l'assistenza agli anziani, allora arrivano le badanti dall'Ucraina. E se nessuno vuole appunto fare i falegnami, ecco che arrivano, oppure gli edili, guardate che anche l'edilizia ormai è diventato... E vale il ragionamento al contrario, che molti nostri ascoltatori, ora prendo veramente le parti del diavolo perché io non lo condivido, dicono però se non ci fossero gli extracomunitari in molti di più andrebbero a raccogliere pomodori. No, credo di no. Non esiste la prova contraria, perché ci sono gli extracomunitari, e quindi... Poi certamente in alcuni casi ci sono forme di sfruttamento che allontanano il lavoro regolare e quindi anche gli italiani, no? Cioè è molto più facile arruolare della manodopera in nero per fare dei lavori umilissimi che poi vengono pagati in nero, sottopagati, che non magari degli italiani che sono più, diciamo, controllabili, fra virgolette, no? In qualche modo. Però il teorema del leghista secondo cui questi tolgono lavoro agli italiani fa acqua da tutte le parti, perché il tasso di occupazione, nonostante sia bassissimo ancora, negli ultimi 20 anni comunque si è alzato in Italia, no? Nonostante siano arrivati 4 milioni di lavoratori immigrati. Quindi questo vuol dire che comunque sia il numero di posti di lavoro è aumentato, e questo non è andato a scapito degli italiani, se gli stessi italiani hanno avuto più opportunità più di lavoro. Più posti a disposizione. Bellissimo, questa ce la dobbiamo veramente tenere buona per tutte le discussioni. Facciamo qui la zanzara. Sentiamo Giorgio da Bologna insieme a Sergio Rizzo, che poi saluteremo. Pronto? Pronto, sono Giorgio. Sì. No, io ho sentito parlare qui di lavoro, perché in poche parole, certo, intestato, ci sono stati, io dico, non voglio parlare né di politica né di politici, perché non ho simpatia verso questi personaggi. Bene. Io voglio parlare, faccio il muratore, perciò qui per radio veniva detto che questi hanno bisogno che la gente vada alla faccia anche i lavori più umili. Allora bisogna che si metta in testa questa gente che gli italiani non vanno a lavorare perché non c'è, gli italiani non vanno a lavorare perché hanno voglia e diritto di avere i loro quindi diritti. Conferma quello che ha detto conviene, Rizzo. Conviene più al cosiddetto da Torino, da Torone, come lo vedo, come esperimento, come vedo nell'arco delle giornate, dite. Adesso siamo a livelli di schiavismo, l'italiano certo, io non ci andrei più a fare, io ho smesso di fare questo lavoro, non lo farei più, io non vado a farlo schiavo perché io prima prendo 10 e il padroncino gli conviene pagare 3 euro l'albanese perché è sfruttato, perché è muccio, perché acqua, pioggia, vento, Schiavi, adesso siamo a livello di schiavi. Allora, chiarissimo. Allora, qui non c'è da grazie per questa testimonianza. E il lavoro che diventa umile diventa anche duro da assumere. Sentiamo il nuovo Rizzo e poi salutiamo la firma più sì. nota del Corriere della Sera. Per quel che... L'edilizia è uno di questi settori. È chiaro che quando tu hai una forma di così sfruttamento talmente violento anche in alcuni casi, e dopo diventa difficile proporsi sul mondo del lavoro in termini accettabili, e questo è però il compito delle nostre autorità, di chi fa i controlli, cioè qui c'è tutto poi un altro scenario che si apre, però al netto di questo è vero e comunque rimane vero il fatto che ci sono molti giovani che non riescono a entrare nell'ordine di idee di dover affrontare lavori che magari sembrano all'apparenza umili, no? I figli di papà che vivono con la paghetta. Grazie. Certo. Grazie Sergio, ricordiamo il suo libro Rapaci e lo sentiremo presto. Duccio, tre sbarchi oggi a Lampedusa, giusti o sbagliati che fossero. Che fine hanno fatto i respingimenti? Erano a tempo o proelezioni? Una bella domanda. E dottor Telese, ma è vero che passerà a scrivere sul nuovo giornale con il manettaro di Padellaro? Ebbene sì. Non faccio il paraculum, non so a che cosa si riferisce. E poi un'altra segnalazione, ma Berlusconi non dice che la crisi sta passando? Chi lo sa, è una contraddizione in termini. Noi per ora confortiamoci con i titoli del TG3. Le minacce dei talebani non fermano il voto in Afghanistan, buona l'affluenza nonostante nuovi attacchi, almeno 26 morti. 5 migranti soccorsi a Lampedusa, il loro drammatico racconto, 20 giorni di viaggio, 75 di noi sono morti in mare. Caccia all'evasore in vacanza, dal 1 luglio 15.000 controlli della Guardia di Finanza su yacht, auto di lusso, alberghi e stabilimenti. Dopo i liquami nella Grotta Azzurra scoperti 2 metri cubi di bottiglie gettati in mare, tra i responsabili il titolare di un famoso stabilimento. Aumentano i giovani che decidono di studiare un anno all'estero, 1.400 sono partiti da Roma, mete preferite America Latina e Stati Uniti. Dopo anni di lavoro il regista James Cameron, Oscar per Titanic, torna con Avatar, storia di fantascienza da 200 milioni di dollari. Il caso Semenya, oro ai mondiali di atletica, dubbi sul sesto della sudafricana, la famiglia la difende, lasciatela tranquilla. Ecco, era il TG3, la voce inconfondibile di Jubilee. Ora passiamo a Sky TG24. Afghanistan, voto tormentato, 26 morti per Karzai, comunque un successo. I nostri militari a Herat, alta l'affluenza nella regione, per Frattini dati incoraggianti. I fedelissimi, ma anche 3 donne, Ahmadinejad presenta il nuovo governo iraniano. Torna libero un attentatore di Lockerbie, Washington esprime grande dispiacere. Lampedusa, giallo dopo lo sbarco, 75 morti nella traversata, dicono i migranti. Scontro sul Lazio, nel controllore scherzava il telefono, voglio un gatto alla brace, diceva. Località turistiche nel mirino della finanza, scoperti 44 evasori totali. Schianto fatale sul lungomare, 3 morti in un incidente tra moto nel napoletano. Caldo, temperature record da nord a sud, sabato prevista una tregua. Super Enalotto, questa sera il 6 è da capogiro, il jackpot sfiora i 144 milioni. E saremo lì a seguire anche oggi ogni dettaglio di Ezra Ziona. E per ora torniamo a Napoli, a Surriento. Napoli? No, per ora a Surriento. Quanto è bello, spira tanta sentimento, come tu ci tieni a mente, cascetato fai sull'anno, Guarda, guaghi, sti che bello. Noi stiamo portando il dialetto alla Zanzara. La Lega alla fine ci ha convinto. E abbiamo anche di più. Abbiamo un vero napoletano doc, un grande analista politico, per capire tutto quello che succede intorno al maschio angioino, Marco De Marco, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Buonasera. Buonasera e grazie della presentazione. È il minimo, anzi diciamo pure che ha scritto, perché è poliedrico, un grande libro di analisi sulla crisi del bassolinismo e non solo, e anche un recentissimo e godibilissimo libro, Non sarò Clemente, insieme con Clemente Mastella, uno spaccato di storia italiana. Sì, uno spaccato di storia italiana, raccontato da un uomo che si dichiara uomo di provincia e in quanto tale piano piano si avvicina a Roma, al palazzo, c'entra, si sistema lì per un bel po' e ne esce dopo una ventina d'anni in modo del tutto traumatizzante, e per questo scrive un libro. E adesso, proprio per congiungere i due oggetti della tua ricerca, c'è Mastella che ci fa capire che in qualche modo proprio lui che ambiva a quella poltrona, che Bassolino potrebbe tornare clamorosamente da candidato sindaco a Napoli. Sì, è vero, nel finale del libro lui lo racconta come un disegno, come un progetto sul quale però quando scrive il libro già ha capito che non può contare. Cioè, lui voleva fare il sindaco di Napoli, era la cosa che più gli interessava dopo aver fatto l'esperienza di governo. Quando abbiamo scritto il libro insieme, lui sapeva già che questa prospettiva era sempre più lontana, molto lontana, ma ancora non immaginava quello che sta per succedere, che potrebbe succedere, cioè che a fare il sindaco di Napoli appunto potremmo ritrovarci l'uomo che nel 1993 sorprese tutti, vinse contro la Mussolini e divenne il primo sindaco comunista d'Italia in quell'anno indimenticabile, prima dell'avvento di Berlusconi. Allora, due domande. Uno, è ancora in grado elettoralmente, visto il calo fortissimo che ha avuto il PD nel sud alle europee, è ancora in grado Bassolino di raccogliere una maggioranza a Napoli, di vincere un ballottaggio? Paradossalmente sì, perché è vero che alle ultime elezioni europee, a differenza di quelle politiche di un anno prima, il partito di Bassolino ha dimezzato i voti, è passato da 180.000 a 90.000 voti, quindi è vero che quel partito guidato in qualche modo da Bassolino ha avuto una botta tremenda, però è anche vero che analizzando i voti delle ultime provinciali in città, a Napoli, C'è ancora una maggioranza, ma la distanza dagli avversari, cioè dal centro-destra, è risibile, è minima. Candidandosi lui, quel margine potrebbe essere facilmente colmato. È vero che il possibile avversario potrebbe essere addirittura ancora, come in un remake, Alessandra Mussolini? Sì, a volte ritorna, è così, potrebbe essere, ma questo spiega anche la probabilità alta di un'ipotesi del genere, perché Bassolino appunto ha i numeri ancora dalla sua, e ha anche dalla sua il fatto che i nemici, gli avversari interni si siano molto indeboliti. Nicolais è morto più noto, politicamente, esatto, alle provinciali. In più il fatto che abbiano ripescato la Mussolini, con tutto il rispetto per Alessandra Mussolini, è la prova che il centrodestra non ha candidati sufficienti e convincenti da contrapporre in una gara molto difficile. Viceversa, invece, il centrodestra ha almeno 4-5 candidati possibili alla regione, dove invece appunto il rapporto di forza è a vantaggio della destra, e lì Bassolino non ha alcuna intenzione di presentarsi. E chi sono questi nomi nella pole position della regione? Uno è quello ufficiale, Gianni Lettieri, ed è l'attuale presidente degli industriali napoletani. Ufficiale perché ufficialmente Berlusconi lo ha presentato come tale l'anno scorso, quest'anno lo ha omaggiato nel corso di una cerimonia molto importante a Napoli, non ha ribadito la ricandidatura, ma resta quello dell'anno scorso. Poi ci sono quelle della Carfagna, ministro, molto accreditata nel corso di questi mesi, la quale però pare abbia poca voglia di lasciare il posto al ministero per quello di governatrice. Poi ci sono anche altri candidati locali, ma Bocchino no. Prima di Bocchino sicuramente no, perché Bocchino credo lo escluderei, perché ha già Italo fatto Bocchino uno scontro fu, e già perso, sì, esatto. Già perso. C'è invece il coordinatore regionale del PD, del PDL, che aspira con qualche legittimità a candidarsi a quel posto. Quindi potrebbe andare che vince il PDL alla regione, Bassolino ritorna a Napoli e a questo punto anche il suo peso specifico e la sua disfatta nella vicenda di Monnezzopoli verrebbe ridimensionata, comunque sì, un uomo che tiene, che torna. Esatto, la motivazione di questo ritorno, che diciamoci la verità, appare paradossale a Bassolino stesso, diciamo, io però la vedo proprio in questa urgenza da parte di Bassolino di trovare un riscatto morale, cioè non può chiudere il suo periodo che è durato più di 16 anni con l'ignominia del processo per i rifiuti. Io da questo punto di vista penso di poter capire il ragionamento. Lui per 10 anni, anche più di 10 anni, è stato portato come una Madonna Pellegrina, diciamo. Esatto, come una Madonna Pellegrina in tutto il mondo, addirittura come simbolo del riscatto. Poi improvvisamente gli cade questa tegola in testa, ovviamente dipende dai punti di vista, secondo alcuni questa tegola se l'è buttata lui in testa. Se l'è meritata, è il punto di una decadenza, ma in ogni caso adesso quella è la sua possibilità di riscatto. Esatto. Va bene, allora quando, secondo te, quando è che si scopriranno le carte? Ma secondo me si scoprono dopo le elezioni comunali, che ci saranno tra qualche mese, all'inizio dell'anno prossimo, e lì... Quindi in primavera... Primavera, se ci sarà l'abbinamento con il voto regionale, allora è fatto per Bassolino, non c'è dubbio che l'ipotesi di cui abbiamo parlato sarà subito confermata. Altrimenti potrebbe essere un po' più difficile, ma non avendo alternative davanti a sé, Bassolino potrebbe cominciare da quel momento in poi una lunga campagna elettorale di un anno e riempire il voto che gli verrà grazie a Marco De Marco e l'Italia del ritorno al futuro. Su questo riflettiamo, discutiamo, continua il nostro viaggio nelle notizie vere e paradossali, e i numeri per chiamare sono sempre quelli: 824 0024 349 238 6666 e sentiamo Mario da Benevento. Pronto, buonasera, si sente? È un po' lontano ma la sentiamo. Pronto, mi sente adesso? Bello, forte e chiaro, vada. Pronto? Forte e chiaro, vada. Ascolti, io volevo un'informazione. Avete fatto una bella trasmissione stasera con Sergio Rizzo, che gli artigiani cercano operai, 30.000, 40.000 figure. È una ricerca teorica oppure pratica? Perché se è una ricerca pratica, sarebbe anche bisogno di dire quali sono questi artigiani che cercano questi operai. Lo so, non li possiamo dare il nome e indirizzo di tutti. Abbiamo preso spunto Lo sfido. Allora adesso lancio una sfida. Voi avete il mio numero. Io voglio fare il fabbro. Ci risentiamo fra un mese e vediamo quanta gente mi ha contattato. Allora, date il mio numero, non guardi, so, la CGA di me. No, dica Rizzo. Lei qua nome, cognome e un indirizzo e vediamo se qualcuno le scrive una lettera. Vabbè, scusi, adesso non è che posso dare il mio numero in diretta. Voi avete il mio numero, qualcuno vi contatterà. Ho capito, ma non siamo un'agenzia di collocamento. Lei se vuole le diamo una finestra e può autopromuoversi, oppure chiami Confartigianato, ma non è che possiamo fare noi l'agenzia di collocamento, lo farei volentieri. No, solo, dia la mail. Ha una mail? Sì. Adesso ecco, allora dia la mail. In diretta, diamola. Allora, devi ricontattare fra un mese e vedere quanta gente mi ha contattato. Certo, ci chiama lei. Allora, com'è la mail? Mario77. Mario77 chiocciola? No. No, punto M. chiocciolalibero.it. Ecco, e lei vuole fare il fabbro. Allora, se qualcuno ha bisogno di un fabbro in tutta la Campania, ma in tutta Italia, guarda, in tutta Italia C'è un Fabbro, ci dica una cosa del suo lavoro di Fabbro. Ci dica una cosa bella del suo lavoro di Fabbro, una cosa che lei sa fare come Fabbro. Guardi, mi danno un disegno e gli faccio tutto quello che c'è da fare. Anche se adesso non sto facendo Fabbro, sto lavorando. No, ma lei vuole fare il Fabbro, è giusto. Allora, Mario 77 M chiocciola libero. Punto M allora, chiocciola libero. Sì. Punto it, e chiami o mandi un messaggio chi ha bisogno di un ottimo Fabbro, almeno chi vuole mettere alla prova il nostro Mario. Mario fra 30 giorni ci chiamerà e ci dirà: ho avuto così tante mail. Adesso ne ho curiosità, perché voglio dire... Eh no, ma è giusto, è giusto. Zanzaristi, ascoltate, un uomo che modella il ferro, che cambia la forma delle cose, è il Geppetto della metallurgia. Gli date in mano qualcosa e lui lo tramuta in ciò che voi volete. Va bene così? Va bene lo spot? Così va. Ma perché poi lei deve essere bravo, è tutta una ricerca sballata, perché ho tanti amici che fanno gli elettricisti, che fanno gli idraulici, che fanno i falegnami, e sono lì che sono senza lavoro e sono degli artigiani. Qua dicono che non no, l'idraulico senza lavoro non me lo deve dire, perché non esiste in natura. Comunque, come? Vediamo. L'idraulico che resta senza lavoro non esiste in natura, quindi no, non parliamo non di credo. Idraulico che è senza lavoro, però parliamo di idraulico che aveva fino a un anno fa, sì. 8 addetti, adesso ne ha 6. E vabbè, certo, un po' di crisi c'è. Comunque, questa è la mail. Se volete un Fabbro, c'è una scommessa aperta con Mario da Benevento. Sentiamo Paolo, invece, da Venezia. Terese, buonasera. Buonasera. Intanto complimenti per la conduzione. La preferisco di gran lunga a Cruciani. Non lo dica. E invece lo dico, se lo merita. Ascolti, anch'io telefonavo per quanto riguarda l'intervento di Rizzo. Pronto? Sì, la sento. Sono un po' sorpreso, e l'avevo anche evidenziato su un blog che segue questa trasmissione, che Cruciani si dimentica spesso di citare. L'anti-Zanzara. Esatto, la ringrazio. Io sempre me la vado a leggere, ma quel cornuto, anzi scusi il termine, è andato in vacanza quando io ho iniziato a condurre, quindi sono rimasto molto male. Però è rientrato. Ascolti, è rientrato, questo è importante. In un mio intervento facevo una considerazione. In Italia abbiamo ormai sposato una religione che è quella del mercatismo, e il libero mercato dice una cosa, che la domanda e l'offerta si incontrano. Quindi se qualcuno ha bisogno di un professionista lo paga di più, se non lo trova, e ne trova. Il certo. Problema è che molti imprenditori in Italia non accettano questa logica e preferiscono ampliare il mercato aprendo a lavoratori stranieri per mantenere, per calmierare le retribuzioni. In questo certo, senso, quindi c'è un uso. Ho capito cosa intende. Senta, la fermo un attimo, poi se vuole torniamo, perché abbiamo un ospite molto importante, una storia pazzesca, una storia di cronaca che ci racconta molto dei mutamenti della nostra società, ed è Domenico Cuda, primario dell'unità operativa di otorino laringoiatria, madonna sono riuscito a dirlo, dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Buonasera. Buonasera. Buonasera, vorremmo approfittare lei per raccontare questa cosa incredibile, che sta scoppiando una nuova patologia, o se vogliamo si sta estendendo con dimensioni di massa, il fenomeno di quelli che si rifanno il naso perché sniffano, diciamolo proprio in britannico, è così? Certo, certamente, ecco, è un problema che in fase crescente, diciamo che si tratta dell'effetto cronico dell'assunzione a scopo volontario di cocaina. Ecco, è un problema naturalmente che si sta allargando, certamente, ecco, va ben detto, non si tratta certamente del problema più importante dell'assunzione di questa droga, e purtuttavia è un fenomeno che comincia ad avere una sua rilevanza nell'ambito della nostra attività clinica quotidiana. Ma voi riuscite a capire in modo chiaro, quando operate uno di questi casi, che si tratta proprio di una usura del setto dovuta allo sniffare, all'abuso di droghe? Vede, vi sono vari gradi di questa disfunzione, si va dai casi più lievi in cui la situazione è praticamente indistinguibile da un comune certo. raffreddore, da un'irritazione di altra natura della mucosa nasale, però fatalmente poi compare alterazioni che l'occhio esperto, insomma, riesce chiaramente a individuare. Da che cosa lo capisce? Ci dica tre cose che l'occhio esperto capisce. Ecco, intanto il paziente lamenta ostruzione nasale, tira su con il naso, ha difficoltà di respiro, può perdere qualche goccia di sangue, certo. Si riduce l'olfatto e, diciamo, si vedono delle alterazioni croniche della mucosa, uno scolorimento, una piccola ulcerazione sul setto, che sono abbastanza caratteristiche, soprattutto quando poi si associano all'utente tipico di questa, certo. Che assume. Quindi la, lei inquadra i clienti, l'articolo. Senta, ma e questa operazione è passata dalla mutua? Ecco, guardi, bisogna chiarire, cioè le operazioni si fanno quando ci sono già degli esiti, quando ci sono già delle complicanze, quindi non si tratta degli stadi iniziali, si tratta già di persone che hanno una storia prolungata di assunzione di abuso. Certo. E c'è una varietà di interventi, si può andare dalla bonifica dei seni paranasali, la ricostruzione, alla plastica, la ricostruzione, fino a casi di ricostruzioni molto più sofisticate. Ecco, quello che ci terrei a segnalare è che non si tratta semplicemente di un buco del setto, no? Cioè, lei ricorderà certamente le leggende metropolitane. Sì, le leggende riguardano l'avvocato eccetera, che ecco. Se l'ha rifatto d'argento addirittura. Oro, ma è possibile rifarselo d'argento? Ma si possono utilizzare degli otturatori, ecco, che poi che siano di materiali biocompatibili, certamente si può utilizzare anche quel materiale lì. Ma vede, detto così sembra una sciocchezza, no, il buco. In realtà questi soggetti con l'uso prolungato, soprattutto con i prodotti di verosimilmente di bassa qualità che circolano adesso, no? E in realtà si tratta di un grave disturbo dell'immunità locale e che è associato a delle infezioni da batteri o da funghi, può condurre anche a delle lesioni destruenti, che in alcuni casi possono coinvolgere il palato duro, la parete Mamma superiore mia, non ne parliamo. Ecco, secondo lei quanto è la dimensione di consumo di massa di cocaina? Quanto può essere questo pubblico? Cioè, quanto è aumentato rispetto a 10 anni fa? Ah, moltissimo, soprattutto nelle fasce più giovani e soprattutto nelle fasce non diciamo, come dire, un tempo connotava un certo stato sociale. Adesso è veramente non c'è differenza di classe, assolutamente tutti i nasi scoppiati. E guardi, francamente, nell'attività quotidiana, mentre un tempo era veramente occasionale riscontrare un naso, tra virgolette, sospetto, adesso è molto comune. Io direi che un giorno sì e forse l'altro pure rileviamo qualche paziente sospetto per avere problemi in stadi iniziali di questa patologia. Bene, è tutto a carico della sanità pubblica. Grazie per questa testimonianza, Domenico Cuda, primario dell'ospedale Guglielmo da Saiceto di Piacenza. Avevo lasciato un ascoltatore appeso e... Pronto? È ancora in linea? Oh, meno male, che poi andremo a leggere sull'anti-zanzara che cosa dice di queste puntate. Vede, mi ha dato anche una buona idea. Vada. Nulla, l'intervento era un po' quello che stavo dicendo prima, appunto. Il problema è che questo tipo di approccio poi finisce col spostare un po' tutto quello che è la logica del progresso della nostra società, nel senso che alla fine, invece che competere puntando su investimenti, innovazioni per estendere i nostri mercati, puntiamo unicamente sul contenimento del costo del lavoro, che finisce con l'essere necessariamente a scapito soprattutto dei lavori meno qualificati. E non è un caso sì. Che sia proprio lì che la Lega trova molti aderenti e trova molto successo, perché gli italiani che hanno un lavoro poco qualificato si ritrovano in competizione con delle persone che accettano condizioni di ricatto e condizioni che in un mondo occidentale consideriamo ormai inaccettabili. Certo, capito. Però ribadisco, bene. Basta, se facciamo i mercatisti dobbiamo dirlo alla fine, basta pagare, tutto si trova. È giustissimo, adesso se questa sera l'anti-zanzara ci dà un votaccio è anche colpa sua. No, scherzo. Napoleone da Milano. Sì, pronto. Aia, è caduta la linea. Però intanto sentiamo un servizio su una cosa curiosa, la divisa, addirittura la divisa per i tassisti. Qui stiamo mettendo le divise a tutti. Anche tu, regista, presto avrai una tua berretta e non potrai entrare in questo studio se non hai la tua divisa. C'è gente che viene a lavorare in costume da bagno e le ciabatte. Sì, fanno veramente schifo. Alcuni colleghi ci sarebbe bene, non solo la divisa ma pure le catene. Basterebbe un minimo di decoro, magari evitare certe tenute da spiaggia che si vedono in questo periodo. Lo stile Milano, quello della città della moda. Il comune sta pensando di imporlo anche ai tassisti. Basta i pantaloncini, stop ai sandali estivi. Meglio una divisa come nei film di Totò. L'idea lanciata nei giorni in cui con il caldo sulle auto bianche un liberi tutti è quella di creare una divisa per i conducenti. Un biglietto da visita per la città che si prepara all'Expo. Una divisa? Mi è nuova, cioè non l'avevo ancora sentita. Spero di no. Una volta i tassisti portavano questa divisa che era un grembiule. Non mi ricordo di che colore, comunque portavano questa divisa qua. E se la reintroducessero? Specialmente d'estate ci sarebbe da morire, non è possibile. Ma lei si sente più tassista Armani o Versace? Armani. A settembre inizierà il confronto con i sindacati. Nel 2010 potrebbero arrivare le prime livree, ma non ci saranno imposizioni, hanno chiarito dal comune. Il primo passo nella direzione di un radicale cambio d'immagine. Se Milano vuole rispettare la propria vocazione internazionale, i suoi tassisti dovranno sapere anche l'inglese. Come lavoriamo molto con gli stranieri, soprattutto turisti, secondo me è giusto che facciano qualche corso anche per noi tassisti per poter sapere meglio l'inglese. Let's go to the best exhibition in town. To the best? Non ho capito bene. Evviva, difendiamo anche l'incomprensione di questa lingua. Allora, in linea, ascoltatori di ogni tipo, e sentiamo Napoleone da Milano. Pronto? Sì. Buonasera. Eccolo. Allora, che bello che c'ho nord, centro e sud, però voglio sentire Milano perché è lì che è nata questa proposta. Sì, io sono un tassista, quindi sono toccato in prima persona da questo. Ma è in borghese ancora? Io sono in borghese e ritengo di essere vestito in maniera decorosa, senza sicuramente indossare abiti firmati. Perché, la mia perché non vuole la divisa? Ma non è che io non la voglio, intendiamoci. Innanzitutto bisogna ricordarsi sempre di una cosa, che noi tassisti siamo lavoratori autonomi, prima di tutto. Se il comune ci vuole imporre una divisa... Ci dia anche lo stipendio, ci assuma. Se noi fossimo dipendenti, il comune può decidere di farci vestire come meglio crede. Visto che siamo lavoratori autonomi, mi sembra giusto, anche perché la nostra divisa noi già l'abbiamo, è il colore della nostra macchina. Certo, quindi, giusto, questa è buona. Quindi se già abbiamo una divisa che ci distingue da altri utenti, da altre persone. Quindi la sua è una petizione di principio, cioè dice per mantenere questa identità autonoma perché devo mettere una divisa, questo esatto. È il suo ragionamento. Poi forse qualcuno si dimentica che i tassisti già la divisa l'avevano molti anni fa. Io sono un tassista da 32 anni e mi ricordo che era appena stato tolto questo obbligo. Cioè è iniziato quando è stata abolita e adesso si trova in piena carriera, esatto, quando torna. No, e c'era, ed era ma perché famoso. Era stato tolto? Era stato famoso? Tolto proprio perché c'era un vigile che c'era, perseguitava un po' i tassisti, perché dovevano portare una specie di grembiule grigio bruttissimo e un cappello. E chi veniva sorpreso o senza il grembiule o senza il berretto, Zac, multa, veniva multato. E ok, i tassisti sono un po' ribellati, anche perché era scomodo, era brutto proprio. E poi insomma erano passati un po' i tempi dove tutti dovevano mettere una divisa. Quindi sembra che si voglia tornare, mi sembra di ricordare altri tempi, insomma. No, non citi il ventennio, per carità. Ma le regole venivano da lì. Le regole bene. Venivano da lì. Comunque... I grembiule, ho capito. No, ma poi è anche una questione anche pratica, diciamo, perché i casi sono due. Se il comune ci impone una divisa, o ce la fornisce lui, e sarebbe anche giusto, perché se ti impone la divisa ce la devi fornire... Certo. Oppure ve la dovete comprare voi. Dovremmo pagarla. Dove? Ci dovrebbero dire, tu dovrai prendere là quella divisa e la ma parte. Magari ve lo diranno, sì, questo sì. Una certa magari vi diranno, potete andare in quel posto a un prezzo convenzionato. No, il prezzo lo decide chi farà la convenzione, qui non facciamo manichità, certo. Lasciamo perdere. Allora, se il comune ce la fornisce lui, a parte i problemi logistici che già vedo, che è alto, che è magro, che è grasso, sì, sì. Il costo, io ho fatto un calcolo mettendo una divisa, estate, inverno, mezza stagione, che dicono che non esiste più, comunque il cambio, diciamo una cifra molto bassa di 1000 euro per il tassista. E si va. Diventa un affare, ho capito. Bene, la fermo qui e grazie per questa riflessione, per i problemi che pone. Sentiamo Massimo Calearo, invece deputato del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. A cui vogliamo chiedere di raccontarci, ma che sta succedendo nel PD nel Veneto? Abbiamo letto che lei tutto sommato dice che si potrebbe fare un'alleanza con l'attuale governatore? No, guardi, lì è una situazione molto particolare e si può dire anche molto simpatica. Il Partito Democratico nel Il PD Veneto con Galan. Diviso fra chi vuole andare con Galan e chi vuole andare con la Lega, non è male. No, guardi, allora io credo che da una parte c'è stata una buttar di senatore Paolo Costa, ex sindaco di Venezia, il quale dice salviamo il soldato Galan, diamogli una mano perché sennò viene stritolato dalla Lega. Dall'altra qualcuno dice ma il PD potrebbe anche andare con la Lega. Io le posso assicurare che alla fine, conoscendo abbastanza bene la Lega, si metteranno d'accordo e il governatore Galan andrà con la Lega. Volta farà il governatore del Veneto. Ma lei sarebbe disposto a sostenerlo, però mi pare di capire, se ma lui vede, si staccasse dalla maggioranza. Non si possa fare un discorso preconcetto. Bisogna guardare, ormai le ideologie sono finite, bisogna guardare gli uomini e i programmi, o meglio i programmi e gli uomini. Se ci sono dei programmi seri e delle persone anche trasversali che vogliono far sì che il Veneto, che è una regione molto particolare, perché è compressa tra due regioni a statuto speciale, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, che è abbastanza locomotiva d'Italia perché è molto industrializzata, perché no? Potrebbe diventare un laboratorio, come è stato a mio avviso un laboratorio interessante la vincita di Delai a Trento con l'accordo tra la lista di Delai, l'UDC e il PD. Però adesso quale agenzie fanno titolo? Potrebbe Galan aprire e inaugurare un laboratorio interessante in Veneto con il sostegno del PD? Questo è quello che ha detto. Pronto, adesso non l'ho sentito. No, dico, potrebbe, quindi il Veneto potrebbe diventare un nuovo laboratorio particolare di alleanze anomale con Galan e con il sostegno del PD. Ma perché no? Non spetta a me fare questo tipo di proposte. Tenga anche conto che noi siamo nel Veneto minoranza. Quindi un conto è dire mettiamoci con, ma finché siamo minoranza saranno gli altri che dicono vediamo di coinvolgere anche il Partito Democratico. Quindi una cosa è lanciare un messaggio, un'idea, un'utopia, e un conto è renderla operativa. Certo. Senta, ma l'idea che il PD potesse esprimere una candidatura forte, autonoma, che ne so, Cacciari, Calearo? Ma vede, in questo caso io credo che difficilmente si riesca a fare un'operazione, per quanto forte sia il candidato, vista la nostra percezione. Se non ci alleiamo con qualcuno che ci permetta di arrivare al 51%, possiamo avere, come dicevo oggi in un quotidiano, anche Mandrache, ma se non arrivi al 51% è tempo perso. Certo. Cacciari lei non lo ritiene un nome possibile? Guardi, non spetta a me stabilire chi può essere il candidato. Ma perché per si sottovaluta? Perché dice non spetta a me? Scusi, vada. Sono arrivato ieri nel partito, non ho nessun tipo di militanza. Io credo che Cacciari sicuramente è una persona intelligente. Per il tipo di elettorato che c'è nel Veneto, a mio avviso ci vuole qualcuno di più moderato. Bene, senta, le volevo chiedere invece un'ultima cosa sulle cose di cui si è discusso in questi giorni. Cosa pensa delle polemiche sul dialetto, sull'inno? Ma penso che siano delle enormi stupidaggini, nel senso che per uno come me che è prestato alla politica e continua a vivere d'impresa, per l'Italia che vive sulle esportazioni, invece di imparare il dialetto dovremmo imparare meglio l'italiano e meglio l'inglese. Questo è buono. Lei si sente prima italiano che veneto? Ma io mi sento, guardi, la mia, il mio telefono quando squilla c'è l'inno di Mameli. Addirittura, ci avevano detto che era l'inno di Forza Italia, vede che, no, che male lingua. Se non mi crede chieda a Montezemolo. No, no, sono sei anni o anche più che ciò sto, quando mi suonava in Confindustria lo si metteva sull'attenti, quindi bene, okay. Capisce che... Quindi è molto nazionista. Senta, a questo punto il test. Lei ci deve cantare l'inno. L'inno di Mameli? Sì. Non c'è problema. Allora io le do il là, eh. Bene. Stringiamoci a corte. Una piazza, mi arresteranno per pazzia, ma va bene. Allora stringiamoci a corte e vada. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la... avanti, vada vada vittoria, dove la vittoria e porco la chioma e schiava di Roma, Dio la creò. Bellissimo, ha fatto anche l'acutino sull'A, ma lei è... ma come fa un imprenditore a essere così intonato? Come fa un imprenditore? A essere così intonato. Sono... No, non sono intonato, sono... amo il mio paese perché ho girato molto il mondo e noi siamo il più bel paese del mondo se togliamo gli italiani. Calearo, questa sera ci ha stupito, grazie e alla prossima. A voi, arrivederci. Luca da Milano. Sì, salve, buonasera. Ha visto come è intonato Calearo? Forse era doppiato. Sono rimasto basito. È l'unico che riesce a fare anche quell'acutino là. Ah, creo. No, dai, l'unico no, cioè sarà qualcun altro, se no sarebbe grave, insomma. Un popolo di canterini e di navigatori sarebbe grave. Allora, ci dica. No, il mio intervento era ancora un po' legato al discorso del mondo del lavoro. E premesso, sono di Milano, milanese, e le strade alchimie della vita e della passione mi hanno portato a lavorare in un ambito di agricoltura e di zootecnia in particolare. Ed è un mondo dove in realtà, nonostante la crisi che si attraversa, di posti di lavoro ce ne sarebbero. Mi riferisco, non so, ai mungitori, tanto per non far nomi, che può apparire un lavoro vecchio, ridicolo e quant'altro. In realtà l'ignoranza dei cittadini, quindi dei miei carissimi amici a volte, porta a ritenere un lavoro del genere poco interessante e di poca responsabilità, senza pensare che un proprietario di animali mette in mano a queste persone, a queste figure, la capacità produttiva e imprenditoriale della propria azienda. E sono lavori che sono tra l'altro remunerati quando va male, ma molto male, 1.500-1.800 euro al mese, ma quando va veramente male. Ed è un tipico posto che ormai hanno preso in mano al più del 80% gli stranieri, indiani in primis, tanto per non far nomi. E questo è un lavoro che per esempio gli italiani assolutamente rifiutano. Rifiutano. Noi conosciamo il caso dei raccoglitori di pomodori, ma in realtà, ed è un lavoro rispettabilissimo come tutti, ma che non richiede una grande capacità, una grande formazione. Il mungitore, per fare questo esempio, no certo, deve essere specializzato, ha una responsabilità di salute sull'animale. E ti garantisco che ormai anche all'interno del mondo degli indiani è difficile, c'è una trovare caccia tra famiglie, sono tutti cugini, per cui si trovano il lavoro, ogni due stipendi che vengono dati, due stipendi che il nuovo assunto prende, li gira lo zio, perché poi ci sono anche questi giri di soldi tangenti. Ho capito. È una bella testimonianza la sua, perché spesso dicono ma non è vero, gli italiani questi lavori li vogliono fare, invece lei parla con conoscenza di causa. TG5. Migliaia di afghani alle urne, nonostante le minacce e il terrore imposto dai talebani, aperti il 95% dei seggi. Frattini è stato un successo. A Lampedusa sbarcano 5 eritrei stremati da oltre 3 settimane di viaggio, eravamo 80, gli altri sono tutti morti. Pochi attimi prima dello schianto tra elicottero e Piper nell'Hudson, l'addetto alla torre di controllo scherzava al telefono con la fidanzata. Nell'incidente morirono 5 italiani. Caldo e incendi non danno tregua, temperature record in tutta Italia, 2 persone morte in provincia di Rovigo, nel Salernitano, in manette 2 piromani. A Capri, arrestato il proprietario di un notissimo stabilimento sorpreso a gettare bottiglie in mare, nel Catanese, tonnellate di amianto accanto ad un'oasi naturale. Una vera fortuna avere i nonni in famiglia, dal ruolo di babysitter ai piccoli lavori alla cucina, fanno risparmiare circa 50 miliardi. Tra poco in diretta al TG5 l'attesissima estrazione dei numeri del Super Enalotto, il jackpot sfiora i 144 milioni. E la seguiremo anche noi, però allora liberiamoci subito di tutte le incombenze, i titoli del TG1. L'Afghanistan alle urne, soddisfazione per l'affluenza ai seggi, nonostante gli attacchi la gente sfida la violenza e va a votare. Marce Gaglia al TG1, il peggio è passato, ora meno tasse sui salari e rafforzare le imprese per evitare un autunno difficile. Soccorsi al largo di Lampedusa, due barconi di migranti da giorni alla deriva raccontano di quasi 80 morti nella traversata. L'incidente sul fiume Hudson, l'incredibile conversazione degli addetti alla torre di controllo mentre avveniva lo schianto mortale. Capri colpito al cuore dopo il liquami in Grotta Azzurra, uno dei più noti ristoratori sorpreso a gettare a mare rifiuti. Super Enalotto in palio 144 milioni di euro, tra poco l'estrazione in diretta al TG1, i bookmaker, più probabile l'uscita del 6. E allora sentiamo anche il TG di Antonello Piroso e poi mettiamoci anche noi lì davanti ai bussolotti. Afghanistan al voto tra paura e speranza nonostante gli attacchi talebani. 26 le vittime nella giornata elettorale, migliaia di persone in fila ai seggi. Il risultato si conoscerà non prima di settembre. Per il presidente uscente Karzai le elezioni sono state un successo. Vacanze e furbetti dell'estate nel mirino della Guardia di Finanza, 15.000 controlli su yacht e auto di lusso, scoperti 44 evasori totali e nelle verifiche su alberghi, stabilimenti balneari, bar e ristoranti emersi 36 milioni di redditi non dichiarati. Super Enalotto, tra poco la nuova estrazione, l'inafferrabile 6 vale ormai 144 milioni di euro, il secondo montepremi al mondo. E mentre crescono i giocatori d'oltre confine, scoppia la polemica per una norma che permette alla Sicilia di trattenere quasi il 10% delle giocate fatte nell'isola. Europa League, pareggio per la Roma in Slovacchia, mentre stanno per scendere in campo Genoa e Lazio. Atletica stasera a Bolt contro se stesso nella finale dei 200 metri. La Federazione Internazionale apre un'inchiesta per accertare il sesso della sudafricana Semenya, dominatrice ieri negli 800 metri femminili. Allora, 30 secondi di pubblicità, mannaggia quanta pubblicità, beh, insomma, e poi subito alle sentieri degli ascoltatori. Cos'è il successo? È puntare al meglio e avere sempre il meglio, anche quando scegli un magazine. Il maschile del Sole 24 Ore, magazine dell'anno all'European Design Award 2009. Vuoi il meglio? Scegli il singolare maschile e vincente. Domani in edicola. La Zanzara. Rieccoci, Luca Telese che chiama subito la linea a Ciro da Napoli. Buonasera. Ciro, buonasera. Gente. Non parli in dialetto che poi gli ascoltatori del nord si arrabbiano. No, parlo in italiano, almeno ci provo. No, ma veramente io volevo istigarla a napoletanizzare la Zanzara, no, era una battuta. È capace che mi parta che le qualche, scappi qualcosa, qualche bene, motto napoletano. No, volevo fare due considerazioni. La prima a proposito di Bassolino, ho sentito al volo l'intervista che lei faceva ad un collega, a Marco De Marco, il direttore del Corriere del Mezzogiorno. Ecco, mi auguro che fosse ubriaco il suo collega. No, guardi, un bel De Marco di vino. Non era ubriaco. Allora, sono voci che anche oggi sono rimbalzate sul Corriere della Sera. La follia, diciamo, non ha limite, potrebbe avere. Ma perché anche... lo spieghi, ci dica perché. Ma è sotto gli occhi di tutti, penso che ci sia poco da aggiungere a quello che si è visto, si è letto, si è scritto il presidente Bassolino ha avuto secondo me un grosso merito agli albori della sua carriera e probabilmente ci credeva e purtroppo è arrivato al punto che non ci ha creduto più. Secondo lei vincerebbe? Prego? Secondo lei potrebbe vincere? Assolutamente no, sarebbe una tragedia per lui e per il PD se volesse ricandidarlo. E mi pare di capire che lei non sia un simpatizzante del centrodestra. Io sono un simpatizzante del centro-sinistra. No, l'avevo capito. Quindi proprio da questo lato mi auguro che non si faccia, se non si commetta questo errore. Vede, lo stesso errore è stato commesso con la Rosa Russo Iervolino ricandidandola quando lei non voleva. lei aveva in più di un'occasione proposto di uscire di scena e invece è stata ricandidata, la situazione è andata come è andata, l'abbiamo visto tutti, la perdita, il baratro che si è aperto nel PD a causa di queste gestioni, anche perché Napoli ha bisogno di risposte. Quindi nel momento in cui le risposte non arrivano, la gente cambia bandiera immediatamente, non è che sta là a pensarci più di tanto. Più di tanto. Bene, grazie per questa testimonianza. Voglio aggiungere un'altra cosa, soltanto una cosa, una considerazione piccolissima per gli amici della Lega che pretenderebbero le famose gabbie salariali. Ecco, io vorrei dire, mi inviterei qualcuno di loro a vivere in questa città, nella quale i servizi sono zero, tu devi pagare tutto, non c'è nulla che riesci ad avere. Quindi non so se la Banca d'Italia che ha fatto questo studio, se erano ubriachi anche loro, se dormivano, oppure se erano in malafede. Senta, ci lasci con un proverbio napoletano, facciamo un po' di scuola dialetto. Ma da passare nottate, speriamo che passi presto. Ma questo è troppo facile, lo so pure io. Un altro non mi viene in questo momento. Aia, vabbè. Mi voglio di sorpresa. Allora abbiamo al telefono, grazie a Ciro, un altro ospite, Mario Secchi, neo vice direttore di Libero, che buonasera. Oggi ha scritto un pezzo che ci ha colpito, perché su questa addirittura notizia sconvolgente che i siciliani prendono di più dal Super Enalotto. È la secessione del Superenalotto, al contrario però. La secessione del Superenalotto. Sì, perché l'ha fatta il Mezzogiorno, anzi non il Mezzogiorno perché la Sicilia non è il Mezzogiorno ma un'isola. E sì, incassano il 12,25% di tutte le giocate nell'isola. Tanti soldi. In tre anni avrebbero futtato 42 milioni di euro. Sommato a quelli ai proventi delle altre lotterie farebbero circa una novantina, anche se è difficile fare i conti perché il bilancio siciliano è un ginepraio. È uscito l'84, Secchi. Ah sì? Il primo numero. Molto bene. Ma quindi, e com'è possibile che la Sicilia è riuscita a ottenere, ci sono anche altre regioni autonome, questo privilegio? Sì, tenga presente, Teresa, che la Sicilia ha uno statuto del 46, era una regione più che autonoma separatista, ha avuto molte concessioni dal punto di vista dell'autonomia rispetto alle altre, questo è un dato di fatto. Ha più autonomia fiscale impositiva rispetto alle altre. In più, questa norma, che addirittura risale al 61, poi codificata ulteriormente nel 1993 e addirittura ribadita in un decreto del giugno di quest'anno, serviva a compensare nelle intenzioni un'imposta sostitutiva sostanzialmente, perché gli avevano levato un'imposta di fabbricazione, mi pare, eccetera. Certo. Io però trovo singolare tutto questo, perché insomma, uno dice, vabbè, e le altre regioni, tant'è, sono pirla, cioè. Tant'è che sono, voglio dire, che c'hanno il salame negli occhi, no? Tant'è che oggi, come era matematico e come mi aspettavo, è scoppiato il putiferio. E possiamo tranquillamente anticipare che il Veneto ha già chiesto di ottenere altrettanto per via legislativa, eppure la Sardegna. Eccola, la nostra Sardegna, che c'ha comune. Eppure la Sardegna altrettanto. Ora, lei mi dice come si fa a discutere di unità d'Italia se cominciamo a dividerci pure sul Superenalotto? Ma si rende conto? I numeri 84, 16, 2, 70, 67, 38, che possibilità ci sono che queste richieste vadano a buon fine? È una domanda difficile, certo. Chi deve decidere? Tremonti? Il governo, la maggioranza, il Parlamento ovviamente, che fa le leggi. Certo non sono infondate le richieste degli altri. Cioè, voglio dire, andiamo verso uno stato di federalismo fiscale, un sistema di federalismo fiscale, e allora pure le vincite vanno ripartite. Lei sa oggi, no, che per esempio il lotto va tutto allo Stato. Alcune altre vincite sono ripartite, mentre per il Superenalotto c'è solo la Sicilia che ha questo, ripeto, bizzarro privilegio. Certo. Nulla contro i siciliani, figuriamoci, pure sardo, puoi immaginare, non è quello il problema, però fa pensare, è singolare quantomeno. Ma domani ci tornate su o è finita? No, ci torniamo su, raccontiamo le richieste delle altre regioni, le richieste del Veneto, le richieste della Sardegna, ma ne pioveranno anche altre, vedrà. E dal governo per ora nessuna risposta. Il governo è in vacanza, Teresa. Ho capito. Vabbè, qui vedo che state dando le liste dei presunti evasori, i numeri del lotto, le quote delle imposte. Cioè, calmatevi un po' lì. No, perché poi la saga degli Agnelli, i segreti di casa Agnelli. Addirittura il testamento degli Agnelli, appuntate. Il testamento dell'avvocato è domani. Un'altra terza puntata molto molto molto gustosa e interessante. Cioè? Non lo posso. Vabbè, lei l'ha già vista in pagina, ci fa stare così. Ti faccio venire la colina in bocca. Il 21 entra in campo Feltri. Sarà una bella sfida, ci divertiremo. Un po' di paura ce l'avete? No. Il vostro concorrente? No, assolutamente, siamo liberi e forti. Bene, grazie a Mario Secchi, grazie. Sentiamo un ascoltatore, Luciano da Padova. Va bene, Luciano da Padova, allora saluto la persona che è appena uscita, anche perché ho gli stessi natali, sono un veneto con i natali sardi. Dall'accento non si sarebbe detto. Invece sono nato proprio ad Arborea. Io a Cagliari, quindi... Ecco. Niente, io volevo due brevissimamente, naturalmente. Opero in un'azienda di servizi e ho l'opportunità di girare per tutto il Veneto, nelle aziende di tutto il Veneto. Ecco, le posso garantire che ci sono in questo periodo, in tutte le aziende, soprattutto per falegnameria, i serramenti, c'è una crisi spaventosa, gli operai sono in cassa integrazione e sono a casa. Le aziende, molti stanno tentando di arrivare a settembre, ma la maggioranza pensa di chiudere. Immagina. Cioè, quello che è uscito sui giornali, che si cercano falegnami, mi sembra proprio la più grande panzana che si potesse scrivere. Non ci perché crede neanche lei, ma che cosa... Ma non è che non ci credo, io sono sono un militante della Lega, ma soprattutto sto seguendo diversi comuni. Vi posso garantire che la disoccupazione nei comuni della bassa padovana è spaventosa e ha un crescendo che io non ho mai visto negli ultimi 50 anni, io ho 53 anni, un crescendo di disoccupati nel settore, in tutti i settori, perché lei dice di no, idraulici disoccupati. Io le posso garantire che un idraulico che conosco io sta andando all'Aquila a lavorare perché qui non c'è lavoro per gli idraulici. Non sembra una barzelletta, ma è così. Oggi c'è una crisi di lavoro in tutti i settori, che se c'è qualche imprenditore che ha bisogno di falegnami, elettricisti o idraulici, si rivolga pure alla sede di Padova della Lega Nord, vedrà che gli diamo tutti gli indirizzi che vuole. Ce ne sono tanti che hanno bisogno di lavorare, basta che vengano a dirci: noi abbiamo bisogno di un elettricista, noi abbiamo bisogno di un falegname. Guardi, io la più grande industria di serramenti di Padova, conosco diversi ragazzi, sono mesi che sono in cassa integrazione e sono lì. Chiarissimo. Ma lei aveva accennato e voleva dire qualcosa anche su questa idea dell'alleanza PD-PDL. Appunto, girando molto, essendo all'interno del movimento da oltre 20 anni, per cui una delle persone più anziane all'interno del movimento, quella di PDL e PD in Veneto è una barzelletta anche quella. Al di là che la Lega in un caso del genere rischia di vincere da sola in Veneto. Questo addirittura guardi, io ho il polso di tutta la provincia di Padova e non e è una delle provincia dove la Lega il PD e Galan secondo me Galan è una persona che ha fatto del bene, ha fatto il suo tempo e deve anche lui, non siamo nati imperatori, nel momento in cui abbiamo fatto il nostro meglio dobbiamo lasciare. Io ho appena lasciato adesso un sindaco della bassa padovana. Noi ci siamo impegnati a tirar su dei ragazzi giovani per le prossime amministrative. Abbandoneremo il campo ideale. E lasceremo tutti Zaia. I giovani. Galando Zaia. Non fa la stessa cosa. Ma va bene qualsiasi. Cioè, non siamo lì a fare dei nomi che non. Cioè, basta, le persone che ci sono e sono validissime. Secondo me non è che la Lega ha all'interno dei nostri gruppi qui in Veneto, sono delle persone validissime a tutti i livelli. Non ci manca sicuramente la persona in grado di poter governare una regione, assolutamente, non ne parliamo neppure, e non solo in Veneto, anche in altre regioni, perché abbiamo persone molto valide in Lombardia, abbiamo persone molto valide in Friuli Venezia Giulia, in Trentino, grazie. E il nostro ascoltatore leghista ci ha dato un quadro interessante per chi vuole il polso. 2 16 38 67 70 84. Questa è la combinazione. Che bello questo ronzio sotto. Il Jolly 4, il superstar. 44. Allora stiamo discutendo di cose diverse e mi colpisce che ci sono poche opinioni. Io l'ho trovato sconvolgente questa ricerca che ci spiega che c'è un boom di nasi rifatti per il consumo di cocaina e sono tutti a spese della mutua. Una testimonianza che sicuramente mi ha colpito è quello del l'otorinolaringoiatra che abbiamo sentito poco fa. E vabbè, invece voi siete più intrigati alla divisa dei tassisti. E va bene, sentiamo Fabio da Modena. Sì, buonasera. Buonasera, 824-0024 per intervenire, prego. Sì, buonasera. Non è tanto per il discorso della divisa dei taxisti, il discorso è legato al fatto che ogni giorno uno l'accende e ne sente una. Quindi parlare di decenza perché un taxista si veste magari con la manica corta e il sandalo sembra esagerato in Italia, dal momento che non è una cosa di alta, ma nel resto del mondo ci definiscono anche come la Repubblica del Banana, se non vado errato. Con tutte le iniziative ridicole che ci hanno ridicolizzato nel mondo, tra le quali anche riservare i posti per gli italiani sui tram, linee aeree riservate per i ministri, per Scajola o per chiunque ha, festini, qualunque cosa, mi sembra esagerato. Adesso parlare di decenza riferendosi alla categoria dei taxisti. Io non sono taxista, ma veramente ogni giorno se ne sente una. Tutto qua. Era questo intervento relativo a, adesso certo, parlo delle divise, a delle persone che hanno deciso di fare una libera professione, mi sembra esagerato. Se ne andranno poi nei vigili urbani o in un corpo di polizia, è giusto che abbia una divisa per distinguersi. Chiarissimo. Va bene, grazie. Allora sentiamo Amedeo dalla provincia di Chieti. Eccoci, pronto? Sì. Gente, buonasera. Sì. Dunque, avevo chiamato per la questione che oggi, questi giorni qua si parla, non si fa altro che parlare della lingua italiana, del dialetto sì, della lingua italiana. E giustamente io sono già diverse sere che seguo questa tarantella, diciamo, della Lega, eccetera, ho sentito anche Salvini che è intervenuto in altri programmi, che molte volte questi della Lega, dal mio punto di vista, non sanno manco che cosa dicono. Quando parlano, diciamo, i ragazzi, ci vogliono docenti che insegnano la lingua locale, che debba sapere, quantomeno per capire bene i ragazzi del nord, i meridionali, e dico io, questa poteva andare bene tutta più 50 anni fa, 60 anni fa, ancora prima della scoperta della televisione. E la gente, diciamo, giustamente parlava solo il dialetto, diciamo, nella propria comunità. E giustamente un meridionale che si era laureato andava a insegnare al nord parlava italiano e magari i ragazzi facevano difficoltà a capire. Ma con l'avvento della televisione, dei media, eccetera, e qui non è più l'italiano, fra poco si parlerà solo inglese. Speriamo, speriamo. Di che cosa si sta parlando, diciamo? Speriamo che non sia così, speriamo che si parli sia l'italiano, l'inglese, il dialetto, ma che non siano guerre di religione quelle che nascono da queste scelte. Grazie Vladimiro dalla provincia di Arezzo, ricordo ancora il numero 824-0024, 349-238-6666 per gli sms e... La Lega in città Padova è all'11,3%, ma dove voglio andare? Ci dice Tony. PD, non sappiamo se PD sta per l'appartenenza politica o per la sua targa regionale. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Permette una battuta, innanzitutto una battuta amara. Ma la noi Sicilia, vogliamo le battute. La Sicilia è riuscita a avere il pizzo anche sul Superenalotto? Battutaccia! Buona però. Battutaccia, ma è un fatto. Io volevo parlare del lavoro, perché i nostri giovani non trovano lavoro, non vogliono trovare lavoro, questo è un tema importante. E io penso che una delle cause è dovuta al fatto che da 7-8 anni i lavori sono sempre più sottopagati. Mi spiego. In Grecia le case costano il doppio di quanto costavano prima il lire. Gli stipendi degli edili sono rimasti uguali, anzi sono diminuiti di quando erano a dire, quindi i soldi girano, qualche donna li se li è messi in tasca e danno degli stipendi da fame e la maggior parte degli operai edili ormai sono albanesi, ma non albanesi, perché sono lavoratori abituati forse a durare fatica, a guadagnare poco, eccetera. Adesso nella maggior parte delle aziende, lavori in appalto, subappalto, eccetera, la maggior parte di operai sono loro. Stiamo cominciando a capito. Vedere. È una piccola indagine che stiamo facendo, grazie a questa testimonianza. Sentiamo Enrico dalla provincia di Lecco. Buonasera. Buonasera. Grazie di avermi richiamato. Io sono un commercialista e insieme a mia moglie svolgo anche un'attività di vendita diretta. Ed è un'attività che negli ultimi mesi sta andando molto ma molto bene. Ma abbiamo difficoltà a trovare persone che senza dover fare pure investimenti e senza di fatto rischiare niente vogliono impegnarsi per avere una propria attività. Le persone cercano un lavoro dipendente sicuro, e mi sembra che di sicuro ora ci sia veramente poco, giocano alla lotteria pensando di vincere, devo dire, con probabilità talmente basse. Le probabilità di risultati positivi nella nostra attività, dimostrati anche dalla storia e dai numeri, è difficilissimo trovare persone disposte. Era più facile prima? Ma devo dire, più o meno il periodo non è cambiato molto, ma ora in questo periodo è vero che c'è un aumento in realtà delle persone che decidono di cominciarlo a fare con noi, ma nonostante questo ci sono tantissimi rifiuti, con la paura, col desiderio di cercare il posto di lavoro, e preferiscono il posto di lavoro dipendente, e preferiscono giocare alla lotteria se invece di impegnarsi. Bene, abbiamo grazie. Risultati decisamente molto grazie molto di questa testimonianza. Abbiamo in collegamento dalla Sardegna Federico Garimberti, che è l'uomo che Lanza ha attaccato alle costole di Silvio Berlusconi. Buonasera. Buonasera Luca, come stai? Buonasera a tutti. Bene, bene. Allora vi divertite un mondo quest'anno, eh? Sembrava che dovesse stare sul marciapiede della caserma ai Coppito, invece andate, venite, raccontate, che bello. Beh, insomma, sì, meglio che stare a Coppito, certamente, però non è facile, diciamo, seguire il Cavaliere in questa fase, è un po' complicato, diciamo. Vorremmo... Non so se hai modo di vedere le agenzie, ma... No, cioè, informaci sì, proprio no. Sull'ultima ora, perché sei tu le agenzie, ti abbiamo chiamato apposta, sei il re del re. No, diciamo che oggi notizie eclatanti non ce ne sono, l'unica che siamo riusciti a scovare è la presenza di Veronica Lario in Sardegna. Ah. Sarebbe che comunque è una notizia, ma non lì però sarebbe a Porto Rotondo, mettiamola così. Qui le voci si rincorrono, è difficile sapere esattamente come stanno le cose, ma di certo si potrebbe preparare un colpo di scena spettacolare, una riconciliazione, no? Cioè, perché quello poi pensa che roba se si incontrano in piazzetta Veronica e Noemi. No, allora l'altra notizia è che Noemi è partita questa mattina, quindi questo è un po' si sono... Ah, ecco, allora forse diciamo... è per questo che è arrivata Veronica, ma ci spieghi che cosa è stata questa cosa di ieri, questo arrivo a sorpresa, le foto sul gommone, cioè che spiegazione avete dato? Perché lei non è entrata in villa. No, credo proprio di no. Spiegazione, ma in realtà non è che sia arrivata ieri, pare che fosse qui da almeno 3-4 giorni, come ha spiegato lei stessa, è venuta con degli amici, insomma diciamo che... Aveva quel lei... costume con quella cinta un po' da pistolero, però poi si è anche... Credo che fosse una caramella, sì. Sì. E comunque, no, insomma, sui motivi della sua presenza è difficile saperlo. Io personalmente non l'ho incontrata perché ero di ritorno dalla Tunisia, perché appunto stavo inseguendo il Presidente del Consiglio un po' in giro dove è andato in Tunisia, poi è rientrato a Milano, doveva rientrare in Sardegna il 19, o almeno così lui stesso aveva... È un'agenda che cambia continuamente rispetto al sì, passato, Federico. Sì. Motivo dei miei capelli bianchi precoci, ovviamente. Ma qual è la mappa? Cioè, che cosa sta facendo in quest'estate Berlusconi? Perché non è in Abruzzo, come ha detto, e sarebbe stato giorno e notte? Cosa è cambiato? Cosa sta facendo? Anche viaggi internazionali? Qual è la spiegazione di questo? È un po' complicato. Allora, nel senso si può dire che ha fatto effettivamente delle vacanze in famiglia, perché alla fine, o comunque una vacanza molto tranquilla. È venuto in Sardegna intorno al 10, è restato chiuso in villa, ha fatto poco, ha fatto questa cena con Marina e Barbara, c'è cioè per il compleanno della primogenita, insomma, la presidente di Mondadori, e poi è rimasto in villa. Poi ha rispettato l'impegno dell'Aquila il 15, ha fatto prima questa conferenza stampa al Ministero dell'Interno e poi è volato all'Aquila ed è restato all'Aquila. Poi il giorno dopo è tornato in Sardegna, dove lo hanno raggiunto Eleonora e Luigi, gli altri due figli di Veronica Lario. Quindi diciamo una vacanza sicuramente in cui non ci sono state le feste che lui solitamente teneva a Villa Certosa, se non quella appunto per Marina, e una vacanza possiamo dire in famiglia. Poi è ripartito per Milano per il trofeo Berlusconi il 17, è stato il giorno dopo in Tunisia. E in Tunisia perché? Privata, per una visita privata all'amico Ben Ali, come lo chiama lui, un amico, insomma, una visita privata insieme a Tarek Ben Ammar, suo vecchio amico che ha degli interessi appunto in Tunisia, oltre ad aver coprodotto questo film Bagheria, sul cui set Berlusconi è andato e dove appunto ha parlato di mafia, insomma, diciamo è stata una visita non inconsueta, perché l'aveva già fatta nel 2007, era già andato in Tunisia sempre per trovare il presidente tunisino, e poi era entrato a Milano e il giorno dopo sarebbe dovuto tornare in Sardegna, ma non è tornato. Invece è apparsa appunto, come dicevi tu, Noemi, e oggi la notizia appunto è che è arrivata anche Veronica Lario, non si sa esattamente quando. Qui per spiegare ai radioascoltatori è un po' complicato trovare le informazioni nel mondo berlusconiano, perché come insomma, funziona? Bivaccate là davanti? No, in realtà no, si lavora molto al telefono cercando di disturbare più persone possibile, le informazioni possono venire da dovunque. Un signore che comprando il giornale ha visto la scorta che si muoveva, allora noi ci muoviamo, lo inseguiamo, oppure insomma come sai tu le fonti sono le più varie. Però a volte si tratta anche di stare ore e ore davanti a un aeroporto in attesa che lui arrivi, insomma. Però diciamo, mi chiedevi delle vacanze. Le vacanze sono state appunto abbastanza tranquille, un po' dedicate all'attività di governo, quindi l'Aquila, il Ministero dell'Interno, la sicurezza, via dicendo, un po' dedicate agli affari di famiglia. Insomma, c'è il problema degli assetti futuri societari e l'intervista di Vanity Fair di Barbara ha un po' increspato le acque. Adesso certo, sembra che qualcosa sia, sembra che il sereno stia un po' tornando, se non altro, almeno stando alle foto pubblicate su Chi, vuol dire quel servizio di Chi con i tre figli molto posato, e certo, molto sì, vuol dire qualcosa, sicuramente vuol dire che qualcosa si sta muovendo, insomma, nella direzione opposta a quella in cui si era mossa l'intervista di Barbara Vanity, insomma, che era un'apertura di guerra. Va bene, abbiamo la borsa, ringraziamo Federico Garimberti, cercheremo ancora di sentirlo, se ci sono colpi di scena su Veronica facci sapere, noi siamo qui, grazie. E noi abbiamo una commentatrice d'eccezione che ci racconterà un po' questa storia e la sua storia. Gabriella Dorio, buonasera. Buonasera a tutti voi e buon divertimento, perché stiamo per assistere a una delle più belle gare. Allora ci fai questa consulenza volante, perché io personalmente di Atletica non sono in grado di dare un'interpretazione, quindi ci fa piacere. Chi è qui che bisogna guardare come uno spettacolo? Qua ce n'è uno. Bolt lo sappiamo, ma l'outsider. Ce n'è uno che è sopra tutti quanti, quindi sarà difficile che questo Bolt arrivi secondo. La novità sarebbe proprio questa. Quindi chi è che può darci qualche sorpresa? Chi può inseguire questo figlio del vento? No, io penso nessuno di questi può arrivargli davanti. Ho capito. Purtroppo è una gara veramente scontata questa. Io sono sempre stata una che dice le gare bisogna giocarsele sul campo, però dopo averlo visto sui 100 credo che non ci sia speranza per. Allora, una sfida con se stessi, si stanno piegando i blocchi. Tu raccontaci proprio tutto quello che vedi in diretta appena partono. Il bello è proprio la sfida contro se stessi, quindi il bello dell'atletica è proprio questo, migliorarsi, e io credo che questo sia importante per tutti. Sono partiti. Questo non aiuta. Aia, falsa partenza, è drammatico questo, ti è successo spesso? No, beh, a me no, perché io facendo gare di mezzo fondo era un po' più difficile, però è successo, sì. Ed essere una cosa che ti massacra proprio i nervi, no? Non è una cosa grave. Io ho corso sempre divertendomi molto, e io mi auguro che chi si appresta a fare atletica o chi fa atletica si diverta, perché prima di tutto deve essere questo. C'è una posizione che prediligi nella partenza, nella pista? No, insomma, no. No, io preferivo all'esterno, perché noi partivamo in linea e non in corsia. In corsia si partiva solo nelle gare di 800 metri, però io preferivo i 1500. Certo. Preferivo una corsia esterna, così avevo più possibilità di posizionarmi poi in una posizione più consona al momento. Oh, ti abbiamo chiamato anche per questo caso che sta appassionando l'atletica, cioè questa atleta donna sudafricana, sì, Semenya, sospettata non di non essere donna. Perché, si parla sempre troppo quando succede qualcosa di questo genere. Io lascerei in pace questa ragazza, perché intanto è giovanissima, e quindi lasciamola crescere e aspettiamo eventuali test che la Federazione Internazionale sta facendo. Quindi non ce la prendiamo con una ragazzina che sta ancora crescendo. Molto diplomatica. È un po' mascolina, no, è un po' mascolina, però se la Federazione Sudafricana l'ha portata, vuol dire che era sicura. Certo. Io adesso aspetterei che stanno partendo. Eccoli, e infatti, partiti. Eccoli, è già in testa, Bolt. Sta facendo una curva esagerata. Eccolo, è ancora primo. Beh. Io sto aspettando il tempo. È pazzesco? 19-20. World record. Mamma mia, te l'aspettavi? No, perché praticamente correva da solo, quindi io non pensavo che arrivasse, cioè si poteva anche pensare alla Coppa del Mondo, perché fino a ieri, invece poi ho detto corre da solo, magari non tenta il record questa sera, invece è andato, e la cosa spaventosa è che corre con una facilità estrema. Sì. È stupendo da vedere e crea un'emozione impressionante. Mamma mia, veramente incredibile. Non ci sono più barriere, questa è la cosa. 10 anni fa si diceva che si era arrivati ai limiti umani, invece... Vabbè, è proprio questo il bello dell'atletica, che non si sa, anche perché per fortuna non siamo fatti tutti uguali, e quindi quale sarà il limite umano non si può sapere. È vero che l'altezza intanto godiamoci questi momenti che sono veramente belli. Sì, infatti è lui che si sbraga per terra. È vero che l'altezza può essere anche un handicap? Dipende sempre dal fisico e da uno come la sfrutta. Cioè, dicono che dai blocchi uscire con le leve così lunghe sia difficile, però questo sta dimostrando esattamente il contrario. Non ci sono certezze neanche in questo Stiamo mondo. Stiamo vedendo anche la Di Martino, che sta andando molto bene, quindi speriamo anche nella nostra... Certo. Stiamo parlando di salto in alto. Bene, e allora volevo chiedere ancora, Gabriele, una cosa. A lei è capitato però di confrontarsi con un atleta che aveva quel problema di identità sessuale? Più di una, vorrei dire, perché tante delle mie avversarie di allora avevano vocione baritonale naturale o indotto, questo non lo posso dire. Cioè c'è però, il sospetto del doping, diciamo. Però sì, erano anni brutti per l'Europa dell'Est, quindi insomma era abbastanza normale vedere barba e baffi, eccetera, eccetera. Però io correvo e pensavo alla mia gara, non pensavo certo alle altre. Io facevo la mia gara, mi divertivo, cercavo di fare il meglio possibile per non avere rimpianti poi, e così è stato, insomma. Non ho mai guardato in faccia, anche se un giorno in Coppa Europa sono entrata nello spogliatoio e credevo di aver sbagliato spogliatoio. No, però... a questo punto ci devi dire che è successo. No. Che c'era? Cosa c'era? Però sono cose che capitano, voglio dire, i fisici umani sono talmente diversi che poi questa atleta l'ho rivista anni dopo, era completamente diversa, quindi era dimagrita. Quindi una mutazione temporanea. È sì, pazzesco, sì. Anche lo sport è anche il luogo dove si dimostra sì, che i confini saltano. Io comunque auguro ai giovani che si apprestano a fare atletica di pensare alle cose belle, di divertirsi, di fare con gioia questo sport che è veramente bello. Grazie, grazie a Gabriella grazie Dorio, a voi, campionessa senza, come dire, ombre e senza rimpianti. Io vi auguro di divertirvi ancora con queste gare stupende. Eccolo qua di nuovo. Alla... Eh sì, ecco il replay. E non riesce a stargli dietro neanche la telecamera sul binarietto. È una cosa stupenda. Gli altri sono tutti insieme e lui è 10 metri avanti. Sì, pazzesco. Grazie. Andrea, da Roma. Pronto, buonasera. Buonasera. Grazie per avermi richiamato. Volevo presentare un aneddoto, una cosa che mi è accaduta nella vita. Io per lavoro ho dovuto girare un po' per l'Italia, ho lavorato un po' dappertutto, prevalentemente nel nord Italia, Torino, Milano, Genova, eccetera. E una volta nel 94, quando fui trasferito da Roma a Milano, tornavo a Milano dopo una pausa, sulla scrivania ho trovato un libro che ancora conservo, il Cours de Lombard per Terun di Davide Rota, corso di lingua lombarda per meridionali. Sì, sì, Cours de Lombard per Terun, non so se ancora esiste sulla, in qualche libreria, sicuramente. Perché magari... non mettiamo la pulce nell'orecchio di qualche ma esagitato. È una cosa che io ho trovato simpaticissima. Ah, ecco. Girando un po' il mondo, sappiamo che noi italiani abbiamo tanti difetti, ma sicuramente siamo un popolo simpatico, ecco. Quindi forse bisognerebbe invitare coloro che prendono troppo sul serio certe questioni a, insomma, a sdrammatizzare. Ecco. Il Cours de Lombard per Terun potrebbe essere il primo di una serie, un corso di napoletano per non so, per padani, per polentoni, non so. Potrebbe essere bene. Una cosa, è un aneddoto. Grazie. Bene, allora speriamo che questo opuscolo sia solo uno scherzo. Grazie. Non è uno scherzo. No, ho capito. Dire nel 1994. E allora che non sia stato, ma non hanno coperto il prezzo. Grazie. Roberto da Venezia. Sì, buonasera. Buonasera. Sì, tema del lavoro. Sì, prego. Io volevo parlare della mia situazione personale. C'è un paradosso che sto vivendo da 3 anni. Cioè, nel senso che sono disoccupato e ho fatto dei corsi, per così dire, professionalizzanti. Facevo un lavoro super specializzato, per così dire, nel settore elettronico, industriale, e questi corsi che mi sono stati offerti dai vari enti così locali erano tutti di base, compreso anche l'inglese, che ovviamente per fare un lavoro, cioè per fare qualcosa in elettronica bisogna conoscere anche l'inglese ovviamente, e questi qua erano proprio terra a terra. Ho fatto un corso di AutoCAD, quello forse più professionalizzante di tutti, però essendo che mi ritrovavo al tempo a 53 anni, adesso ne ho 55, nessuno chiaramente va a chiamare una persona di questa età. Però la questione principale del paradosso è questa, che io tra le varie cose poi ho provato a reinserirmi facendo dapprima un lavoro in vendite dirette, come diceva quel signore che era intervenuto precedentemente, e al tempo stesso, essendo che per avviare un qualcosa del genere ci vuole del tempo, avevo anche fatto un corso come amministratore di condominio, quindi ho un tesserino che avrei anche questo tipo di attività riconosciuta, ma proprio per far questo per intraprendere questo mestiere si ha a che fare con fiscalisti, commercialisti, eccetera, che ti aprono un po' lo sguardo e ti fanno capire che effettivamente stai facendo un lavoro che è in gestione separata dell'INPS. E quando poi ho chiesto effettivamente all'INPS ragguagli, io potevo fare... cioè, se io andavo... Scusi che a fare sono i titoli del TG2, sentiamoli in diretta. Sono tornati questi titoli. Buonasera dal TG2, edizione flash del nostro giornale durante i mondiali di atletica. Subito il Super Enalotto in palio, come sapete, stasera 144 milioni di euro. Vedete in sovrimpressione la sestina estratta poco fa, ma sentiamo in diretta dalla Sisal di Milano Rossana Vesnale. Niente, niente, zero titoli. Torni, prego. Pronto? È ancora là? Sì, allora, no, niente. Sì, continuando un attimo il discorso, la questione è questa, che appunto... intraprendere qualcosa, un'attività autonoma in gestione separata dell'INPS, certo, non ti viene consentito di pagare i contributi, quelli normali, buoni per così dire, che ti consentirebbero di andare in pensione. E quindi all'INPS mi hanno detto: non puoi continuare a fare un lavoro di questo tipo, cioè lo devi praticamente lasciare. Al tempo stesso, un lavoro che ti può venire offerto di questi tempi, certo, a 900, alla fine. E quindi cosa fa? 900, lavoro nero. A 900 o 1000 euro al mese non ti, andrai in pensione con una pensione da fame. Facendo un lavoro da 900 o 1000 euro ti è consentito però di fare il lavoro in gestione separata dell'INPS. Quindi alla fine... Ho capito. È il paradosso di questo mercato del lavoro, è tutto sbagliato. Grazie, purtroppo il tempo è finito. La nostra redazione, bravissimi, Gloria Guerrera, Antonella Migliaccio, Guido Scotti, i due registi, Valeria Bernardi da Milano e Alessandro Chiappini, detto lo smilzetto qui da Roma. Grazie.